Timido e non maestosamente sovrano era stato il cenno del duca, al quale aveva risposto lo scatto di quella vasta, ingegnosa, docile e fastosa orologeria meccanica e umana. L'indecisione del gesto mi parve non nuocesse all'effetto dello spettacolo che ne dipendeva. Sentivo, infatti, che a renderlo esitante e imbarazzato era stato il timore di lasciarmi capire che, per andare a tavola, si aspettava me solo, e mi si era aspettato per un pezzo, così come Madame de Guermantes temeva che, dopo aver guardato tanti quadri, io mi stancassi e non fossi a mio agio se mi si presentava a getto continuo. Insomma, era dalla mancanza di grandezza del gesto che nasceva la vera grandezza. L'indifferenza del duca verso il proprio fasto, i suoi riguardi, invece, per un ospite di per sé insignificante, ma che egli voleva onorare. Non che il signor di Guermantes non fosse, per certi aspetti, assai ordinario e non avesse ridicolaggini da uomo troppo ricco o l'orgoglio del parvenu che non era, ma come il mediocre talento di un funzionario o di un prete viene moltiplicato all'infinito, al pari di un'onda incalzata e premuta da tutto il mare dalle forze cui essi s'appoggiano, l'amministrazione dello Stato e la Chiesa Cattolica, così il signor di Guermantes, era trascinato da un'altra grande forza, l'autentica cortesia aristocratica. È una cortesia dalla quale molti rimangono esclusi. Madame de Guermantes non avrebbe ricevuto Madame de Cambremer o il signor de Forcheville, ma dall'istante in cui qualcuno, come era il mio caso, sembrava suscettibile di venire aggregato al giro Guermantes, quella cortesia svelava tesori di ospitale semplicità più magnifici ancora, se possibile, dei vecchi salotti, dei meravigliosi mobili sopravvissuti al tempo. Quando voleva far piacere a qualcuno, il signor di Guermantes possedeva un'arte speciale per trasformarlo, quel giorno, in protagonista assoluto, un'arte che sapeva sfruttare la circostanza e il luogo. A Guermantes le sue distinzioni e le sue grazie avrebbero assunto un'altra forma. Avrebbe fatto attaccare i cavalli per portarmi a fare, io e lui soli, una passeggiata prima di pranzo. Quali che fossero, ci si sentiva commossi dai suoi modi, come, leggendo memorie dell'epoca, da quelli di Luigi XIV, quando risponde con ridente bontà e accennando un inchino a qualcuno che gli sottopone una supplica. Comunque, in un caso come nell'altro, si deve tener presente che la cortesia non andava oltre il limite di ciò che la parola significa. Luigi XIV, al quale i fanatici di nobiltà del suo tempo rimproveravano, peraltro, la scarsa cura dell'etichetta, al punto che, secondo Saint-Simon, egli è stato, quanto al rango, un ben piccolo re a paragone di Filippo di Valois, Carlo V, eccetera, fa redigere le più minuziose istruzioni perché i principi del sangue e gli ambasciatori sappiano a quali sovrani devono cedere la destra. In determinati casi, di fronte all'impossibilità di giungere a un'intesa, si preferisce convenire che il figlio di Luigi XIV, Monsignore, riceverà quel certo sovrano straniero soltanto fuori, all'aperto, perché non si possa dire che, entrando nel castello, uno dei due ha preceduto l'altro, e l'elettore palatino, ricevendo a pranzo il duca di Chevreuse, finge d'essere malato per non cedergli la destra, e pranza con lui, ma restando coricato, il che risolve drasticamente il problema. Poiché il signor duca evita ogni occasione di rendere omaggio a Monsieur, questi, su consiglio del re suo fratello, che lo ama teneramente, trova un pretesto per far salire il cugino in camera sua e costringerlo a porgergli la camicia. Ma non appena si tratti di un sentimento profondo, di cose attinenti al cuore, il dovere, così inflessibile quando si tratta di cortesia, cambia radicalmente. Poche ore dopo la morte di quel fratello, una delle persone cui ha voluto più bene, quando Monsieur, secondo l'espressione del duca di Montfort, è ancora a tutto caldo, Luigi XIV canta arie d'opera. Si meraviglia che la duchessa di Borgogna, la quale stenta a dissimulare il proprio dolore, abbia un aspetto così malinconico e, desiderando che l'allegria torni immediatamente a regnare, perché i cortigiani si decidano a riprendere il gioco, ordina al duca di Borgogna di cominciare una partita di brelan. Ora, non solo nelle azioni mondane e concertate, ma anche nel linguaggio più involontario, nelle preoccupazioni, nel modo di impiegare il suo tempo, il signor di Guermantes rivelava lo stesso contrasto. Rispetto ai comuni mortali, i Guermantes non soffrivano di più. Si può anzi dire che la loro vera sensibilità fosse inferiore. In compenso, il loro nome compariva ogni giorno nelle colonne mondane del Galois a causa del numero incredibile di funerali nei cui registri avrebbero trovato colpevole non apporre il proprio nome. Come il viaggiatore ritrova, quasi identiche, le case coperte di terra, le terrazze familiari a Senofonte o a San Paolo, così, nelle maniere del signor di Guermantes, uomo di commovente cortesia e di rivoltante durezza, schiavo dei minimi obblighi e incurante dei patti più sacri, io ritrovavo ancora intatta, dopo più di due secoli, quella deviazione, tipica della vita di corte sotto Luigi XIV, che consiste nel trasferire gli scrupoli di coscienza dal campo degli affetti e della moralità alle questioni di pura forma. L'altra ragione dell'amabilità dimostratami dalla principessa di Parma era più specifica. La principessa era preventivamente convinta che tutto ciò che vedeva in casa della duchessa di Guermantes, cose e persone, fosse di una qualità superiore a tutto ciò che aveva lei in casa sua. È vero che anche in tutte le altre case si comportava come se fosse stato così. Per il piatto più semplice, per i fiori più comuni, non si accontentava mai di estasiarsi. Chiedeva anche il permesso di mandare subito, il giorno dopo, a copiare la ricetta o studiare la specie, il suo cuoco o il suo capo giardiniere, personaggi lautamente remunerati, con la loro vettura personale e, soprattutto, le loro pretese professionali, i quali si sentivano un po' umiliati a doversi occupare di un piatto insignificante o a dover prendere a modello una varietà di garofani che non valeva la metà quanto a bellezza, dovizia di screziature e dimensioni dei fiori di quelle che esse avevano ottenute da tempo per la principessa. Ma se, in casa di tutti gli altri, quella sua meraviglia di fronte alle minime cose era artificiosa e destinata a sottolineare che lei non traeva dalla superiorità del suo rango e delle sue ricchezze un orgoglio vietato dai suoi antichi precettori, dissimulato da sua madre e insopportabile al suo Dio, era, per contro, in tutta sincerità che la principessa guardava al salotto della duchessa di Guermantes come a un luogo privilegiato in cui non si poteva non passare di sorpresa in delizia. D'altra parte, in un modo generale, che pure sarebbe del tutto insufficiente a spiegare quella disposizione d'animo, i Guermantes erano abbastanza diversi dal resto della società aristocratica. Erano più preziosi e più rari. A prima vista mi avevano fatto l'impressione opposta. Li avevo trovati volgari, simili a tutti gli uomini e a tutte le donne, ma solo perché prima avevo visto in loro, come in Balbec, Firenze, Parma, dei semplici nomi. Evidentemente in quel salotto tutte le donne che avevo immaginate come altrettante statuette di Sassonia assomigliavano comunque, assai di più, alla stragrande maggioranza delle donne. Ma, non diversamente da Balbec o da Firenze, i Guermantes, dopo aver deluso l'immaginazione, perché assomigliavano più ai loro simili che al loro nome, potevano in seguito offrire all'intelletto, sia pure a un livello inferiore, un certo numero di caratteri distintivi. Il loro stesso fisico, il colorito, d'un rosa speciale che arrivava a volte sino al viola, il colorito della loro carne, la biondezza quasi luminosa anche negli uomini dei loro capelli delicati, raccolti in ciuffi dorati e dolci, una via di mezzo fra i licheni parietari e il pelame felino, fulgore cui corrispondeva una certa lucentezza dell'intelligenza, perché se si citavano il colorito e i capelli dei Guermant, si citava anche lo spirito dei Guermant, come quello de Montmartre, uno stile sociale più raffinato da prima di Luigi XIV e tanto più universalmente riconosciuto in quanto essi stessi lo promulgavano. Tutte queste cose facevano sì che persino nella materia, già così preziosa, della società aristocratica in cui erano sparsamente inseriti, i Guermant restassero riconoscibili, facili da discernere e seguire, simili alle venature bionde del diaspro e dell'onice, o ancora alla morbida ondulazione di quella capigliatura di luce i cui filamenti capricciosi corrono come raggi flessibili nei fianchi dell'agata muschiata. I Guermant, quelli almeno che erano degni di questo nome, non avevano solo una qualità squisita di carnagione, di capelli, di trasparenza dello sguardo, ma un modo di stare in piedi, di camminare, di salutare, di guardare prima di stringere la mano, che li rendeva differenti in tutto ciò da una comune persona di mondo, nella stessa misura in cui questa differisce da un fattore in camiciotto di tela. E, a dispetto della loro amabilità, si era portati a chiedersi non avrebbero realmente il diritto, anche se lo dissimulano, quando ci vedono camminare, salutare, uscire, tutte cose che, fatte da loro, diventano graziose come il volo della rondine o l'inclinazione della rosa di pensare «Sono d'una razza diversa dalla nostra e noi siamo i principi della terra?» Solo più tardi avrei capito che i Guermant mi consideravano sì di un'altra razza, ma una razza che suscitava la loro invidia, perché possedevo pregi di cui ero ignaro e nei quali essi dichiaravano di credere come negli unici davvero importanti. Più tardi ancora mi sarei accorto che tale professione di fede era sincera solo a metà e che in loro il disprezzo e lo stupore coesistevano con l'ammirazione e l'invidia. La flessibilità fisica propria dei Guermant era duplice. Grazie a un primo tipo, sempre pronto a entrare in azione, se ad esempio un Guermant maschio doveva salutare una signora, otteneva di se stesso una figura fatta dell'equilibrio instabile di movimenti asimmetrici e nervosamente compensati, una gamba un po' strascicata, o a bella posta, o perché, fratturatasi più volte a caccia, imprimeva al torso, per raggiungere l'altra gamba, una deviazione cui faceva da contrappeso, alzandosi appena, una spalla, mentre il monocolo, incastrandosi nell'orbita, inarcava il sopracciglio nello stesso istante in cui il ciuffo dei capelli s'abbassava per l'inchino. L'altro tipo di flessibilità, come la forma dell'onda, del vento o della scia impressa per sempre nella conchiglia o nella barca, si era per così dire stilizzato in una sorta di mobilità invariabile, disegnando la curva del naso aquilino che sotto gli occhi azzurri a fior di testa e sopra le labbra troppo sottili dalle quali, nelle donne, usciva una voce rauca, ricordava l'origine favolosa assegnata nel XVI secolo dalla buona volontà di genealogisti, parassiti ed ellenizzanti a questa razza indubbiamente antica, ma non al punto di poter pretendere, come essi facevano, che l'avesse originata la fecondazione mitologica di una ninfa ad opera di un uccello divino.